Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La scorsa settimana abbiamo anticipato l'entrata in vigore il 3 marzo del regolamento dell'Unione Europea numero 995 del 2010, che ha lo scopo di proibire l'immissione nel mercato comunitario di legname e prodotti a base di legno di origine illegale. Questo fenomeno ha dimensioni veramente elevate e viene stimato tra il 15 e il 30% del commercio di legname. L'Italia non è un'isola felice, purtroppo, e anche quello che viene prodotto nei nostri boschi non è sempre legno di provenienza lecita. Dobbiamo fare rilevare poi che il citato regolamento comunitario non è ancora stato recepito nella normativa italiana, pur essendo entrato in vigore a livello comunitario, e questo potrebbe essere motivo di qualche problema per l'industria nazionale del legname. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con il professor Davide Pettenella, docente di economia politica e forestale presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Benvenuto. Grazie. Allora, il tema è abbastanza vasto e anche forse poco conosciuto. Parliamo di legname, di foreste, di boschi e in particolar modo del prodotto principale di queste foreste, che è il legno, che purtroppo non sempre, anzi molto spesso, non arriva in modo legale in Europa. L'Unione Europea ha cercato di porre un freno a questo mercato illecito con questo regolamento entrato in vigore questa settimana. Questo è il quadro. Ci sono, io penso, due aspetti importanti da considerare. Uno, quello collegato alle possibilità di sviluppo dell'industria del legno. L'altro, più collegato a come gestiamo il nostro patrimonio forestale interno nazionale. In relazione al primo aspetto, il regolamento è un regolamento importante perché segna un cambiamento di prospettiva nel diritto europeo, quindi anche nel diritto italiano, perché per la prima volta viene, per un grande prodotto come è l'insieme di prodotti a base di legno, stabilito il principio che esiste una responsabilità legale nell'importazione di legname di provenienza illegale. Questo non esiste un'analoga norma per altre materie prime ed è quindi una svolta significativa. Quindi l'importatore risponde della provenienza di questo legname. Esatto, esatto. Dal momento che ovviamente dobbiamo sottostare a determinate regole del commercio internazionale stabilite dal WTO, non possiamo introdurre delle forme di barriere non tariffarie all'importazione senza avere un comportamento, una richiesta analoga per i produttori interni all'Unione Europea e quindi anche i produttori italiani che introducono materiale legnoso sul mercato. Quindi come esigiamo una dimostrazione di legalità a chi introduce dal mercato extra Unione Europea prodotti legnosi, la stessa cosa dobbiamo fare per i produttori dell'Unione Europea e nazionali. E qua subentrano una serie di problemi, perché legname di provenienza straniera, extra Unione Europea, di cui fa largo uso il settore industriale italiano, proviene spesso da paesi dove il problema della legalità è un problema molto, molto presente. Faccio qualche esempio: noi siamo i primi importatori al mondo di legname che proviene dal Camerun, ma siamo anche i primi importatori di legname da molti paesi balcanici dove esistono problemi di questo tipo. Siamo grandi importatori da altri paesi africani e del sud-est asiatico dove esistono problemi di legalità. E non ci sono i necessari strumenti per controllare poi l'origine di questi prodotti. Diciamo che strumenti erano stati su base volontaria introdotti nel passato, come per esempio la certificazione volontaria cosiddetta FSC, FSC certo. È uno standard che sta per Forest Stewardship Council, ma ben poche imprese italiane sono certificate FSC, anche se ci sono delle presenze significative. È sufficiente, una garanzia sufficiente, affidabile? Io direi sostanzialmente sì. Il problema è che il regolamento 995 che ha citato non riconosce FSC come garanzia assoluta di legalità, il che a mio avviso è un po' un errore. Il fatto è che parliamo di due serie di interventi, uno di carattere pubblico in mano ai decisori pubblici, quindi su base legale, l'altro invece lo schema di certificazione FSC sviluppato dalla società civile su base assolutamente volontaria, dove i sistemi di controllo sono tutti interni al mondo, all'operatività del settore privato. Senta, il fatto che l'Italia non ha recepito ancora questo regolamento può creare qualche problema, no? di un vuoto anche, sì, anche di competitività per le imprese. Sì, certo, è un problema perché di fatto il regolamento è in vigore, quindi per esempio degli utilizzatori di prodotti a base di legno localizzati in Italia potrebbero chiedere alle imprese italiane di dare evidenza dell'origine legale delle loro produzioni, e le imprese italiane in effetti possono adottare su base volontaria, su iniziativa propria, dei sistemi di dovuta diligenza, questa è la traduzione che gli viene data alla due diligence del regolamento 995, però è una dovuta diligenza che non viene sottoposta a nessuna forma di controllo, e questo perché il regolamento, come lei ha ricordato, è del 2010, in più di due anni non siamo nemmeno riusciti a designare l'autorità nazionale di controllo, che poi nel caso specifico dell'Italia questa autorità nazionale di controllo direi è una scelta estremamente facile da fare, perché siamo l'unico paese dell'Unione Europea con un corpo di polizia specializzato nel settore forestale, che è il Corpo Forestale dello Stato. E quindi sarebbe automatico pensare a questo Corpo Forestale. Ci fermiamo tra qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as it can. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Make me forget my name. What the hell you do? I won't remember. remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn, girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa, whoa. My mind keeps saying, run as fast as you can. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con il professor Davide Pettenella, docente di Economia e Politica Forestale, e stavamo parlando di un nuovo regolamento dell'Unione Europea, il numero 995, per un po' la protezione del commercio legale del legno. Volevamo capire, dopo aver parlato un po' degli aspetti burocratici, anche qual è realmente la situazione. Cioè, veramente tra il 15 e il 30% del legname che entra in Europa oggi può essere di provenienza illegale, e poi anche i problemi che ci sono alla base, non so, la deforestazione, problemi di biodiversità minacciata, cose di questo genere? Oppure... Certamente, sì, la stima ufficiale della Commissione Europea è del 19%, però è una stima in ogni caso approssimata, ed è approssimata in quanto il concetto stesso di legno illegale non è estremamente chiaro, perché l'illegalità può essere collegata a forme non corrette, non rispettose della legge, delle leggi nazionali nel taglio, quindi nelle concessioni date alle società di utilizzazione, ma può essere anche un'illegalità collegata alla gestione dei lavoratori forestali, alla realizzazione di infrastrutture, al rispetto dei sistemi di misurazione, di tassazione. Quindi si va da un'illegalità semplicemente economica o fiscale ad illegalità che invece magari comporta problemi di carattere ambientale o altro. Esatto, esatto. E nel dare questi numeri di riferimento che lei ricordava, generalmente si fa riferimento ai problemi di illegalità proprio nella gestione della prima fase della produzione forestale, cioè il taglio e l'esbosco del legname, e gli altri aspetti tendono a essere abbastanza trascurati, anche perché c'è il rischio che le percentuali salirebbero in maniera significativa. E ovviamente questi problemi di legalità sussistono anche per i legnami di provenienza nazionale, dove l'illegalità ha una natura molto diversa. In Italia non assistiamo a processi di deforestazione, di tagli considerati fuori controllo del patrimonio forestale. Anzi, l'Italia è, insieme alla Grecia, il paese dell'Unione Europea con il minor livello di utilizzo delle risorse forestali interne, con la differenza che la Grecia ha boschi poverissimi e l'Italia invece ha una parte del proprio patrimonio forestale che sta invecchiando e che molte volte andrebbe bisognerebbe intervenirci, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì, cioè rimboschimenti fatti negli anni 50, 60, 70 che dovrebbero essere adesso trattati, diradati, con magari l'introduzione di specie autoctone più resistenti. Quindi il nostro patrimonio forestale è un patrimonio da curare attivamente. Però ci conviene acquistarli dall'estero che utilizzare il nostro, a quanto pare. È così, per tutta una serie di ragioni molto molto complesse, l'elenco sarebbe lungo, si va dai problemi della frammentazione fondiaria, dell'abbandono quindi della nostra montagna, alla mancanza di infrastrutture, strade, alla mancanza anche di manodopera sufficientemente qualificata, quindi mancati investimenti, per esempio nella meccanizzazione forestale. Ci dobbiamo fermare qui perché il nostro tempo purtroppo è volato. La ringraziamo di averci introdotto a questo argomento che prima o poi dovremmo riapprofondire. La ringrazio, ringrazio la trasmissione, perché penso che affrontare questo tema sia importante, ricordando agli ascoltatori che l'Italia, anche se non è parte ormai più della nostra memoria storica, della nostra cultura, è un paese forestale, e il Veneto ancora di più della media italiana. Ringraziamo il professor Pettenella e passiamo ad alcune notizie. Treviso accoglie fino a domenica 10 marzo nell'area del Foro Boario l'unica tappa del nord Italia del progetto nazionale La Rotta del Buon Pescato, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole. Vi fa parte un intero auto articolato attrezzato per far conoscere pregi e caratteristiche, soprattutto in cucina, di 16 specie ittiche abbondanti nei mari nostrani. È aperto al pubblico dalle 9 di mattina fino alle 19. Il villaggio del Buon Pescato ospiterà degustazioni, assaggi, dimostrazioni di cucina, laboratori del gusto, gare tra cuochi, dibattiti e incontri culturali e promozionali. Dal 16 al 24 marzo si tiene la nuova edizione della Settimana dell'Ambiente Veneto, durante la quale si potranno visitare oltre 50 siti dedicati alla tutela del rischio idrogeologico, alla gestione del patrimonio idrico o al recupero dei rifiuti. Alcuni convegni specialistici si terranno invece nel salone dedicato all'ambiente presso la Fiera di Padova. Per avere il programma dettagliato si può visitare il sito www.regioneveneto.it nella sezione Ambiente e Territorio. L'11 febbraio scorso la Giunta regionale del Veneto ha approvato un importante provvedimento che ha istituito la rete regionale degli osservatori per il paesaggio, ampliando quindi la struttura organizzativa dell'osservatorio regionale, finora limitata in via sperimentale a poche aree del Veneto. L'osservatorio potrà estendere quindi a tutto il territorio veneto la propria attività, che ha lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intera regione. La richiesta di adesione alla rete potrà essere presentata da enti ed associazioni, individuando un ente capofila che sottoscriverà un protocollo di intesa con la regione stessa. Anche per questa settimana è tutto, vediamo appuntamento alla prossima, riascoltateci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.